corretta come Callimaco. Il mio parere è implicito in ciò che cito, incito rivoluzione rivolta in modo sistematico, ma comunque non esplicito. Dadaismo random autoanalitico, non solo contro il rap a schema rigido, non so, sono l'unico oltre che l'ultimo. Insulto il pubblico che ormai sembra un gesto pubblico. Chiarisco subito, non c'è un solo cubito di ciò che dico è pratico, che si ritenga solido, comico, atomico, ma come in Democrito. Non vedi l'oggetto, ma percepisci un eidolon. Tu vedi Zorro, io invece vedo l'Antelon. Il nocciolo è che la scelta porta al solito pentimento cosmico, e la non scelta è comunque una scelta dialettica. Il sentimento è la sintesi che diventa tesi, opposizione antitesi, di nuovo sintesi, intesi. Queste le mie basi, niente a che fare con antichi gruppi rappusi. Eric B, Rakini, Public Enemy, IPMD e via così. Sono persone, guardali, loro sanguinano, tu sanguini. Ipse dixis aristotelici, contro originali discorsi filosofici. Non si capisce più chi siano i pubblici, che gli elitari aristocratici. Resto fra quelli che partono e parto con quelli che restano. Poi dopo scelgo, da solo itinero, non tornerò. Poi ci ripenso e faccio dietro a front. Alcuni mi accolgono, in grande parte non mi capiscono. È giusto, è scomodo, dovreste fare uno sforzo a prendere il dizionario e documentarvi. Ma so che preferite ballare e dire ci penserò. E so anche che se apprezzaste e ricercaste mi opporrei decisamente. Quindi fate quel cazzo che volete, lasciatevi offendere. Ho le mie non strade da non percorrere, nuove paranoie da far sorgere, otto coscienza da detergere, un cervello da cercare di spegnere, una vita da tendere, un arco da tendere per liberarmi di presenze scomode. Voglio che la gente canti la mia canzone, talmente tante volte da non capire più il significato delle parole. Prole, vuoi avere prole? Qualcuno che ti ascolti e rappresenti ciecamente il tuo filone? Questo non è la migliore delle ipotesi possibili, perché di solito non consideri, non ascolti pareri di simili, non valuti che potresti essere fra dei precabili. Avete solidi principi stabili, vocabolari bisillabici, baci facili e tanti titoli giustificati e giustificabili. Siete quasi magici, perché inspiegabili venti cosmici sostengono i vostri corpi su sentieri per me troppo fragili, troppo facili. Seguendo i vostri codici ci sentiremo inutili, paradossalmente ridicoli, discorsi inutili. Che non capisci perché stai valutando la metrica, il flow. Opposto, questo è l'opposto. Se non hai capito un cazzo di quello che ho detto, sei perfetto. Tanto non capiresti lo stesso. Da me pateusina maxi ta steiben eteroni ikni a me cazzoma di fron elan medo in mon ana platun alla che le utsus atriptus e kai steino terren elasis. Tanti stronzi, infatti, comunque, razze piose, persone famose. Gli stronzi metteli in un posto segreto. Sì, tipo la sigla degli team. Come cazzo è che fa? Inquananato. Sì, era così.